Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi tirarlo forte. Attaccare! Più forte. Più forte, perché era nello stadio. Attaccare! Ma dai, state a vedere. Attaccare! A me fa piacere che oggi Papa Francesco a Torino abbia trovato il modo e il tempo di incontrare anche dei rom. Sono sicuro che avrà incontrato anche dei torinesi esodati, cassintegrati, sfrattati o disoccupati. Basta muri, no, il muro lo facciamo. Questo è forato perché bisogna fare i ponti. Perché, ragazzi miei, noi dobbiamo fare un ponte, perché sennò da che parte passano per tornare a casa? Un ponte a senso unico, per mandarli di là. Poi se vogliono approfittarne anche la Boldrini e tutti gli altri per andare in Libia, un cammello ad accoglierli sulla riva la troveranno sempre. Da Maggiorata, sono del Senegal, ma sono un leghista da molto tempo. Con la ruspa la gente dice cacciar via gli immigrati. Ma assolutamente, è solo per gli immigrati non regolari, è solo questo, poi naturalmente i rom, che comunque lì va ruspato tutto. Questo è il leghista Diop, il leghista senegalese, se anche candidato fa scalpore, perché tutti a cercarlo, perché è nero e leghista. Ma poi tra l'altro hanno anche Tony Iwobi, che è il responsabile dei migranti della Nigeria, della Lega. Oggi devo iniziare col vapensiero, perché ho qui due comunistoni pronti a combattere, quindi dovevo dare una dose massiccia di salvinismo, di ruspismo, di ruspantismo, di calderolismo, di leghismo, di pontidismo, altrimenti qua adesso mi abbattono tutto con le ruspe gli ospiti che arrivano. Certo, c'è da dire che i giornali oggi sono abbastanza noiosi, ma ieri c'era l'intervista definitiva, ultimativa, l'intervista a J-Ax sul Fatto Quotidiano. Ero in Liguria sotto il sole e leggevo ridendo. A un certo punto volevo coinvolgere tutta la spiaggia a leggere. Sentite qua J-Ax, che ha parlato della liberalizzazione delle droghe leggere, tema molto serio, ma sentite con quali argomenti, ma straordinario. J-Ax ieri sul Fatto Quotidiano: il turismo, rilanceremmo il turismo. Ma ve lo immaginate cosa diventa l'Italia con la legalizzazione delle droghe? Vai a vedere i monumenti di Roma, a Venezia, vai al mare al sud e poi ti fai una bella canna. Sbaragliamo tutti, facciamo chiudere l'Olanda, freghiamo tutti. Certo, facciamo in fretta, però, prima che ci freghino l'idea la Spagna o la Grecia. Attaccare! E ancora J-Ax: ma scusate, l'alcolista comincia con un bicchierino la sera a cena, ma nessuno si sognerebbe mai di vietare la produzione di vino. Anche il maniaco sessuale parte con una sega. Ma per fortuna non tutti i ragazzi che si masturbano diventano stupratori. Questa scrivetela però, scrivetela, eh! E il Fatto la scrive. Chiudiamo l'Olanda, vieni qui, Venezia, Roma e poi una bella canna. Sono le 6:32 di mattina. C'è Peter Beschapelle Alpino che è tornato con noi, c'è anche Lorenzo Nespoli in redazione. Devi aprire il Parlamento e anche se farei sentire tutto il va-pensiero. Adesso vado a prendere un caffè, diventando Radio Padania, ragazzi. Grazie. Radio Padania stiamo diventando. Allora, intanto saluto un interista, colui che è un furtarolo, un truffatore, ci ha rubato un giocatore, se non due, se non tre, Alessandro Robecchi, che torna con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai, comunistone? Ma abbastanza bene, molto bene, bene, bene, bene, tutto bene. Tutto bene, che ne pensi di J-Ax? Facciamo fallire l'Olanda così? Beh, insomma, l'Olanda non mi sembra un posto così degradato, è un posto carino, Amsterdam è una bella città, non si discute di Amsterdam, mafia Amsterdam, capitale, abbiamo delle cose da invidiargli. Vabbè, tra cui questa, non c'è capito. No, vabbè, sì, anche, perché no, ma io non sono... né favorevole, cioè come dire, sì sono favorevole. No, io sono un liberale, quindi sono favorevole alla liberalizzazione. Io non sono un liberale, ma sono favorevole lo stesso alla liberalizzazione. Vabbè, vedi che però l'obiettivo è congiunto, facciamo un governo comunista. Le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. Caro Milan. Caro Robecchi, anche con Dobbià ci divide. Vabbè, che dobbiamo anche fare? Voi però braccino corto, tu fuori un po' di grana, dai. La grana. Fuori la crana. Allora, caro Alessandro Robecchi, ti voglio presentare la nostra Veronica il becco. La nostra Veronica Gentili. Ecco. Buongiorno. La pensatrice del Fatto Quotidiano, l'avrà letta questa intervista a J-Ax mentre ti facevi una canna, ovviamente. Certo, ma io dico, ma con tutte le cazzate che hanno detto ieri, ma tu ti puoi preoccupare di J-Ax? Ma no, ma l'intervista di ieri, del giorno era di J-Ax. Ma io dico, ma tra tutte le preoccupazioni in ordine, la tua prima preoccupazione è J-Ax. Allora, è forza. Oh, brava Veronica, che cade... Oh, meno male, come attaccare. Mi sento già bene stamattina. Allora, io. Allora, ti faccio subito stare male. Caro Alessandro Robecchi, sai che Veronica Gentili è un amante del calcio e quindi c'è sempre la domanda d'ingresso. Che Veronica Gentili pensava che Messi giocasse nella Lazio, questo ti faccio Alessandro, capire. A parte vi chiamate tutti così, adesso è un guaio, ti chiamerò Milan per oggi, esatto. Alessandro lui. Ti faccio solo sapere che pensava che Messi giocasse nella Lazio. Questo è facile, dai Veronica, questo è facile. Chi è il nuovo allenatore del Milan? Non c'ho idea, Conte. Conte! Andiamo, bravissima. Azzeccato, no, è Mihailovic. Vabbè, ma dai, non importa. Io ho tre nomi in testa, te li riuso per tutto. Conte, eh. Messi e il terzo? Anche questo trio esagero sempre io. Triplete, va bene. C'ha il triplete in mente. Vabbè, ma dai, su Robecchi, comincia. Fatto, adesso... dai, comincia tu. Era per cercare di evitare di subito di farvi sparare a zero, ad alzo zero su Salvini, la Lega. Però dai, Robecchi, inizia tu. Noto con divertimento, diciamo così, che anche Pompida si adegua ai tempi, ha messo i bambini sul palco, perché adesso bisogna far vedere i bambini che siamo capaci di fare i bambini. Sì. Io ne ho due, tra l'altro, quindi li hai portati? Non li ho portati, ovviamente, perché io li educo, insomma, cerco di stare attento. E adesso si vantano di avere i meridionali. Io ho visto che sono partiti dei pullman. Sì, ha parlato anche una consigliera eletta in Puglia. Ho visto che esibiscono zio Tom un paio di loro militanti di colore che attacca il Papa, e quindi direi che è tutto previsto e prevedibile, no? Niente di un po', ha rottamato un po' i suoi vecchi, che insomma era anche un po' ora. Non ti ha colpito, tutto nella norma, tutto come previsto. Ma è tutto come prima. L'unico problema è vedere se riuscirà il nostro eroe a rappresentare lui la leadership del centrodestra. E questo si vedrà. Oggi c'è un'interessante intervista a Silvio Berlusconi sul Giornale. Veronica, che c'è? Ho detto una parola. No, avevo capito. Ho un'interessante intervista a Silvio Berlusconi e già avevo visto cose di tutti. Però se ti interessa sapere, vedi, io sono un po' visionario, mi sono sognato stanotte che intervistavo Berlusconi. Giuro, Vedi? Giuro. Madonna, che attività onirica. Intensa, intensa, io così ve l'ho beccata, ve lo sto, ve lo sto giurando, hai veramente su pesante, tutto, tutto ciò che ho di più caro. Alle 6:37 minuti ho sognato di intervistare Berlusconi, arrivo e c'è un'intervista di Berlusconi, a Berlusconi sul giornale. Guarda che sono segnali. Va bene, che dice il nostro amico, no, e dice che Salvini è un dinamico spregiudicato, cinico e quindi un grande valore aggiunto per il centrodestra. No, ma che deve dire? È vero questo. Che cos'altro potrebbe dire? Non lo so, Veronica, tu cosa devi dire allora, di Salvini? Intanto guarda, oggi ce l'ho così con Salvini. Veramente Salvini è riuscito a fare l'alter ego di Matteo Renzi, sono stavolta l'ho proprio puntualizzata perché perché esattamente come Matteo Renzi ha espugnato la sinistra, sì, lui sta espugnando la Lega definitivamente. E ieri vedere quei disgraziati, perché a quel punto diventano dei disgraziati, di Calderoli, Bossi, gente che comunque pensa, perché quelli erano convinti, se non altro la Padania, capito? Non passiamo il Po, liberiamo la Padania. Improvvisamente lui ha detto ragazzi fuori, adesso rottamiamo senza neanche dirlo, in maniera molto più drastica ancora, e ha deciso, no, tipo il cuculo, di prendersi il nido già fatto, si è e buttato, uccidere tutti. Sì, e fare proprio un'altra cosa che, di cui ormai le parole d'ordine sono solo ruspa, non si sa bene da mettere dove per farci che. Per abbattere Renzi, dice lui. Sì, ragazzi, appunto. Ha anche citato involontariamente il Cigno Nero, il film, che Renzi è il suo sabotatore, capito? È il peggior nemico di se stesso. Cioè, dai. Dai, su, basta. Vabbè, sai che noi abbiamo un grande zoccolo duro di ascoltatori leghisti? Sì, vabbè, quindi? Quindi i messaggi al 349-238-6666, dite pure ciò che pensate. No, gioca la sua partita, no? Cioè, certo. A parte l'intervista di Berlusconi, mi sta venendo in mente quei film americani sulla CIA, quando dicono è un bastardo, quindi deve essere dei nostri. No, sì, sì, è un bastardo, ma è il nostro bastardo. Esatto, per la verità, per la verità non era più, così, non era più il bastardo, era un po' più. Ma io mi modero. Era più il son of a bitch, ma esatto, insomma, va bene, esatto, va bene, va bene così. Che dobbiamo fare? Vabbè, ma non mi siete molto scaldati su Salvini, niente, tutto previsto, le ruspe, le robe. Devo dire la verità, che Salvini non entusiasma, nel senso che il suo e questo, il fatto che non ci siamo scaldati e che non ci scaldiamo ha una spiegazione politica. Perché mentre Renzi in un certo senso è riuscito in una fase, ora non si riesce più, però è riuscito a parlare al paese, quindi anche ai non suoi, Salvini continua di fatto a parlare ai suoi, quindi come dire, a noi non ci riguarda. È solo che i suoi sono aumentati come numero. Sono aumentati, però quegli aumenti lì, come dimostrano anche gli aumenti del 40% di Renzi, sono aumenti molto mobili, è gente che arriva, sta, mangia un panino e poi se ne va. Quelli che c'ha lui sono sempre quelli. Sono sempre i facili entusiasmi che poi ti passano dopo un quarto d'ora. Essendo anche un messaggio rabbioso, raccoglie un po' di rabbia. Poi quando la rabbia si svolge ad altre cose, per esempio... inizia il campionato di calcio? Ma faccio un esempio, che adesso tutti con le ruspe, i rome, dopo a novembre incomincia a piovere, nei paesi anche del Veneto, o del Piemonte o della Brianza si aprono le buche nelle strade e si incazzano col sindaco. Inizia tematica calda il inizia sindaco. Ma il sindaco, adesso ve lo faccio sentire il sindaco. Prima c'è però un appello per questioni di età riguarda dei presenti solo Veronica Gentili. Ecco, questo lo devo dire. L'appello viene dal Papa, niente meno che perché insomma si rivolge ai giovani, quindi Robecchi, se tanto meno tanto. Mi ci metto anch'io. Non è che insomma, sono cose che noi forse Papa Giovanni XXIII poteva dirci, o forse no, non lo so. Adesso, ma io lo so dove vuoi arrivare. Adesso le dice Papa Francesco e vorrei un commento dall'esimia Veronica. Sentite. Io non vorrei farmi il moralista. Anche il Papa alcune volte deve rischiare sulle cose, per dire la verità. Questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, ma è passarla bene, fare bene la vita, io vi dico, siate casti. Eccola là. Ecco. Punto. Ma lo vedi, perché tu vai sempre a guardare proprio il senso letterale delle parole, Alessandro. Ah, stamattina insulto te. Piate Caspi è un concetto più ampio, tu. Cioè non ce l'aveva con J-Ax. Tu ti eri già preoccupato del trisom, era già quello il problema. non ce l'aveva con J-Ax o col trisom, no. No, io non credo che fosse quello il senso di questo discorso. Diciamo che Papa Francesco è molto... insomma, dai, però il piacere, la ricerca idonistica del piacere. Ma è un discorso di costume, è un discorso di una società improntata tutta soltanto al consumo, sì. Che in qualche modo è autoimplosa. Lui che ha fatto un discorso anche in questa enciclica. Sì, cercate di recuperare qualche cos'altro che prescinda. Però ha anche aggiunto: l'amore non è quello delle telenovelas. Insomma, stai facendo di tutto per scamparla da un commento, cara Veronica. Perché andare contro il Papa in questo momento vuol dire stare per Salvini, per Veronica Gentile. No, e quindi, ma io credo, e quindi... questo Papa non ci andrò mai in assoluto, eccola, perché questo eccola. Papa proprio non ci sarebbe ragione di andargli contro. Sentiamo il giovane Robecchi. Un po' esatto, c'è anche un po', diciamo, di tradizione in questo, un Papa molto di rottura. Meno male che però ogni tanto un pochino la tradizione deve mantenerla, e c'è questa, insomma, tradizione millenaria della Chiesa, alla fine, di mettere sempre le mani nelle mutande della gente, di cosa deve fare, cosa non deve fare, perché farlo, come farlo, in che modo, con la luce accesa, con la luce spenta, in uno, in due, in tre, in quattro. Sì. Io sono con Sant'Agostino, ama e fai ciò che vuoi. Come diceva Benigni, ama e fai ciò che vuoi. Siamo tutti sulla stessa barca, infatti. Vabbè, ma a questa proposta arriva la domanda definitiva: ma Veronica è single? Sono le 6:44 del lunedì. Ma che domande fate? Io non rispondo a nessuna domanda, non vi dico niente, non vi dico per chi voto, vi dico se sono single. È vero, c'è questo. Vabbè, no, poi diciamo, Milan, che ci sono modi per provarci anche, diciamo, più discreti, eh? Vabbè, ma questo è arriva davanti a noi, arriva un SMS, non so, ma Veronica è single, vabbè, e non, quindi non risponde alla domanda. Ma di me non lo chiedono, sono indignato. No. Non lo so, magari qualcuno chiedesse, qualcuna è interessata, perché lui è un tradizionale, anche se poi non va a manifestare con Adinolfi, però è un tradizionale. Qualcuna, ma in realtà, cosa hai detto? Esatto, infatti quello è un altro tema rovente della giornata. Mamma mia, che tema rovente. Proprio rovente. Comunque, secondo me chiedono se sono single perché si domandano se c'è qualcuno che ce la possa fare a sopportarmi. Ma non sai, non lo so se proprio questo era il primo intento. Non, adesso non possiamo andare a capire cosa c'è dietro la genesi di questo SMS. È così, è punto. Veronica, è una domanda semplice anche da capire. Vabbè, diritto di cronaca, dai. Vabbè, ma Veronica... Alimentiamo la mitologia sulla doppia vita di Veronica, così vabbè, non si sa. Quindi non si sa per quale partito voti e non si sa se sia single o no. È difficile poi capirlo, soprattutto non si sa non nulla. Si sa. Senti, abbiamo fatto Salvini, Papa, cosa manca? Allora, adesso manca il traffico e poi dopo ti faccio sentire Adinolfi e Marino, sapete, Marino ieri ha avuto un, mamma mia, si è svegliato un sussulto veramente da passionario, l'hai visto? Mamma certo mia, punto. Ha detto la destra torni nelle fogne da cui è venuto a Marino. Sono che meraviglia, grandi momenti. Sono gli ultimi colpi d'ala, perché poi vabbè. Tu ancora, adesso comincia, oggi non litighiamo sulla Francia, ma guarda, oggi andiamo su Marino. Ma io è da giorni che dico che sto dalla parte di Marino, fa bene a resistere, dai, su, resistenza. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo. 24 mattino. Io sento mafia capitale, politici, corruzione e tutto. La gente ruba e sono, non fanno niente, anzi, sono ancora lì. Fabrizio Corona è stato rilasciato dal carcere e affidato a una comunità. Adesso vediamo quanto passerà prima che scappi via. Salvini, 20.000 euro al mese tacciate, fate venire a far baessa, va a dormire Salvini, va a dormire. Ciao Milan, senti, volevo dire a Ignazio Marino di non mollare. Alino, e che attaccare l'anno prossimo? T'attacchi come gli ultimi 4 anni. me le fai girar, me le fai girar come fossero trottole. Quando parli tu non ne posso più, devo subito spegnere. Non ti accorgi quando sbrocchi, quando dici le cazzate, tu parli solo per te. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Anch'io la mia dichiarazione d'amore l'ho avuta, come vedi, Robecchi. Wow. genio questa signora. Genio. Dobbiamo far imparare le persone a cantare. A me piace quando cantano in segreteria, anche se cantano insulti. Siamo con due comunistoni così, Alessandro Robecchi e Veronica Gentili. Allora, Corona, tra l'altro oggi leggo sul giorno che Corona potrebbe diventare insegnante in una scuola di fotografia. Lui che ha detto pubblicamente varie volte di non avere mai fatto una sola fotografia in vita sua, ma Jeff vendeva fotografie, ma non sa neanche da che parte si prende in mano una macchina fotografica, potrebbe fare l'insegnante. Vabbè, è la riabilitazione. Però siccome di cazzate e di bugie ne ha dette tante, magari anche quella di non saper fare fotografie era una bugia. Ah, ecco, potrebbe essere. No, comunque, poi scusa, ma tutto che bisogna reinserirlo, è un lavoro, bisogna darglielo prima o poi, no? Ah, sì, cioè, io comunque penso che Corona, col lavoro che faceva, Corona da cui si dice, diciamo, oceano, per carità, no? Però una fotografia la sa valutare, sa capire il valore sul mercato di una fotografia. Sì, questo sì, abbastanza. Ma vabbè, poi scusami, per il reinserimento abbiamo reinserito Buzzi, non possiamo reinserire Corona? Ma che sì, certo, Buzzi sì, è stata proprio una bella riconquista per la società. Milan, sei circondato. Sono circondato. Non c'è speranza. Guarda, e invece no, io non esci. Come rilancio, sono circondato. Come rilancio io quando sono circondato? Chi lo sa, non rilancio. È venuta malissimo, non rilancio niente. Attaccare! Vabbè, ecco. Insomma, sì, ciao, ormai l'invasore. Allora, Marino, Ignazio Marino, sì. Eccolo qui, colui che dice alla destra di tornare da dove sono venuti, Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? Senti qua la festa dell'unità come si è? Veronica, senti la festa dell'unità come si è? Ma sai com'è? E i militanti del PD è tanto che non sentono parlare male della destra. Quindi hanno trovato uno che spara sulla destra. E poi, guarda, le fogne non lo so, però se parlava di Carminati che tornino in galera. Vabbè. No, ma che tornino anche nelle fogne, così per favore la smettiamo di sentire gentaccia, capito? Che dopo aver fatto qualunque cosa sta lì a pontificare su Marino, su quello che deve fare. Ormai mi dà così fastidio questa cosa che quando prendo le buche, no, in motorino, col dolore alla schiena, che va in giro in motorino, per via Cavour, talvolta. Allora non prendete nota, via Cavour, quindi è una zona che cari ascoltatori, cominciamo ad avere il primo segnale, il primo come ogni si tanto chiama? Mi distraggo e do una mappatura, però devo concentrarmi di più. Allora, comunque, quando salgo ormai sto zitta e dico sì, voglio tenermi le buche in silenzio perché non ne posso più. È stata fatta una tale speculazione su questa cosa, una strumentalizzazione secondo me contro quel poveraccio di Marino, che per carità abbiamo tutti inveito su molti aspetti come sindaco. Detto questo, adesso vedremo quando troveremo qualcuno che sia in grado veramente di fare però, il sindaco però di Roma. Aspetta Veronica, perché qui c'è un'altra domanda importante. Ma Veronica è gay? Calla, su questo, anche su questo lascio la suspense. Insomma, però devo dirti che dopo il Family Day dell'altro giorno mi verrebbe un'enorme voglia di dirti di sì, ecco. Proprio terribilmente. Allora, vediamo un attimo, perché allora calcio no, single boh, gay boh, via Cavour. Ecco, questi sono. Allora, questa è la schedina. Questo no, per ora abbiamo questi indizi, ecco. Ti trovo molto indietro però, Sì, sono molto comunque indietro. Comunque non hai tutti i torti, diciamo che sentire delle lezioni di moralità è un festa da Alemando fa un po' ridere. è come se ci spiegasse come spallare la neve. Esatto. Alle mano. No. Vabbè, ce l'avete, no, vi devo far sentire Adinolfi, dai, perché ce l'avete, ce l'avete. Siamo partiti con Salvini, state attenti, che poi magari domani lo chiamo, vi faccio rispondere proprio a schiaffoni. Adinolfi. E col denaro vanno a cercare una donatrice di ovulo. Attenzione, siamo dentro una neolingua che dice una cosa ma ne significa un'altra, perché quella donatrice evidentemente non dona alcunché. È un atto di compravendita di quell'ovulo. Quella donna per dare quell'ovulo deve essere bombardata. Ce l'ha con Elton John, Elton John, che si è comprato il figlio, va bene? Va bene, Probecchi? Tu ti sei comprato un figlio? No, li ho fatti da me, però... Devo dire che regolamentando ovviamente la cosa, se una cosa è possibile, si farà. Ma dai, però no, io dico dai, l'affitto dell'utero no. No, ecco, ecco l'affitto questo dell'utero, è il punto. No. Il punto è che Mario Adinolfi, essendo più intelligente delle persone che mediamente discettano di queste cose e che frequentano queste manifestazioni, ma le frequentano politicamente come oratori, riesce a utilizzare l'unico argomento che è un argomento controverso da un punto di vista etico, perché su tutto poi ci sono delle sfumature, che è l'utero in affitto, perché è chiaro che ci sono delle situazioni... Anche tu, dai, ammettilo, vacilli un po'. Ma ci sono delle situazioni estreme in cui nel momento in cui realmente diventa un fatto di potere economico che si impone sulla povertà di persone che utilizzano il loro corpo per situazioni in India veramente parossistiche, ed è chiaro che questo è un argomento sensibile che va affrontato in maniera molto molto attenta, perché non è una cosa sciocca. No, ma è chiaro. Dietro a questo, capito, con questo si ammazza, cioè, usa tutta il paravento di questo per... Esatto, e diventa questo poi lo standard legge dietro al quale stanno dei discorsi improponibili. La faccenda del gender Dilarante. Sai cosa facciamo? Ma sai cosa facciamo? Visto che abbiamo finito, faremo un dibattito con Adinolfi, così ti vedo bella combattiva. Calcio no, single boh, gay boh, via Cavour, vabbè. Vi devo salutare, Alessandro Robecchi e Veronica Gentili, col solito mantra, grazie. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, eccoci ben ritrovati nel giorno in cui inizia la 112esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Forza che ce la facciamo. Noi oggi parleremo un po' del piano Rom, così è stato definito dal Ministero dell'Interno, cioè dare soldi ai comuni per superare l'emergenza dei campi Rom. Avremo con noi Piero Fassino, che è il sindaco di Torino, nonché il presidente dei comuni. Poi parleremo un po' con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, a partire dalla questione immigrati, Arno Compaccer, sarà nostro i microfoni alle 8:40, perché lì al confine, anche con l'Austria, abbiamo dei problemi da qualche giorno. Intanto però andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 22 giugno i titoli, il Sole 24 Ore, dov'è? Eccolo qua, è scomparso, lo vedremo tra poco. Intanto il Corriere della Sera, il piano di Atene per l'accordo, questo è il titolo con cui aprono tutti i quotidiani, la Grecia, cioè il summit questa sera per capire cosa succederà sul destino greco. Piano di Atene per l'accordo, e anche per Repubblica, Atene ultima offerta, le tasse saliranno, euro, ecco la riforma. Mentre il Messaggero, nuovo piano, la Grecia ci prova. La Stampa invece punta ancora sugli immigrati e lavoro, le sfide del Papa e il viaggio del Papa e la visita alla Sindone e a Torino, ed è il titolo di prima pagina. Sul Giornale invece c'è un'intervista a Silvio Berlusconi. Noi, la Lega e quel che verrà, il cavaliere a tutto campo, intervistato dal direttore Alessandro Sallusti. Questi alcuni dei titoli. Voglio partire proprio subito dalla Grecia. La Grecia, perché oggi alle 20 c'è il summit straordinario tra i 19 leader dell'Eurozona e si capirà qualcosa, se si arriva a un accordo o se si arriva alla rottura definitiva, con tutti i rischi anche addirittura di Grexit, e cioè dell'uscita dall'euro da parte di Atene. Atene verso il compromesso, per la verità questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Su che cosa la Grecia pare pronta a trovare un compromesso con l'Europa? Beh, cedere sulle riforme da fare, sulle tasse un po' da aumentare, sui prepensionamenti da evitare, il piano di prepensionamenti, insomma, diciamo che alcuni elementi per i quali ci potrebbe essere un accordo sono messi nero su bianco da tutti i giornali. Per la verità, Repubblica oggi mette a pagina 4 l'interessante intervento di Yanis Varoufakis, che è il ministro delle finanze greco. È un intervento che è stato fatto sul Irish Times e viene riproposto da Repubblica. La casta dei burocrati non ci vuole ascoltare, così l'Eurogruppo sta perdendo potere. Questo è Yanis Varoufakis, che scrive: i meeting di giovedì scorso dell'Eurogruppo è scivolato via e passerà la storia come un'occasione perduta di dar vita a un accordo tra la Grecia e i suoi creditori. La zona euro si muove in modo misterioso, scrive Varoufakis. Decisioni di importanza preminente sono approvate senza riflettere da ministri delle finanze che restano all'oscuro dei dettagli, mentre i funzionari non eletti di istituzioni potentissime sono bloccati in negoziati con una parte sola, un governo isolato in difficoltà. I greci per anni hanno protestato a gran voce, hanno opposto una fiera resistenza alla Troica. Nel gennaio scorso hanno eletto il mio partito radicale di sinistra e restano fermi nella totale assenza di vento della recessione. Se tale sentimento è comprensibile, permettetemi, cari lettori, di sostenere che in ogni caso non è di alcun aiuto per tre motivi. Primo, non agevola la comprensione dell'attuale tragica situazione greca. Secondo, tralascia di informare adeguatamente il dibattito su come la zona euro dovrebbe progredire. Terzo, semina senza necessità alcuna discordia tra popoli. Di cosa ha bisogno la Grecia? Beh, Varoufakis qui è chiaro quando scrive: ciò di cui la Grecia ha assolutamente bisogno ora non sono altri tagli, tali da spingere una popolazione già molto depauperata in condizione di ulteriore avvilimento. Ciò di cui la Grecia ha disperatamente bisogno sono riforme serie ed equilibrate, un nuovo apparato fiscale che contribuisca a debellare l'evasione fiscale e al contempo arginare le interferenze della politica e delle imprese. Ci servono un sistema di approvvigionamento esente da corruzione, procedure di concessione di licenza che siano business friendly, riforme giudiziarie, soppressione di scandalose prassi di pensionamento anticipato, adeguata regolamentazione dei media e del finanziamento dei partiti politici e così via. E invece, dice Varoufakis, c'è un silenzio assordante dall'Eurogruppo e chiunque avesse assistito giovedì alla riunione giungerebbe alla conclusione che si tratta di un forum assai bizzarro, male attrezzato per prendere buone e solite decisioni quando l'Europa ne ha davvero bisogno. Ma Varoufakis, come al solito, rompe un po' le uova nel paniere, ma tutti raccontano di un accordo appunto vicino, anche perché l'alternativa sarebbe terribile. L'offerta, secondo Repubblica, prevede da parte di Atene un meccanismo per bloccare in tempi stretti le finestre di prepensionamento, un giro di vite sugli assegni previdenziali più alti, un rimescolamento delle aliquote IVA che toccherebbe solo marginalmente medicina e elettricità. Per il resto, le bozze precedenti verrebbero ricalcate: interventi pari al 2% del PIL, contributo di solidarietà per i redditi sopra i 30.000 euro, nuove tasse per le imprese e così via, alcune delle proposte che metterebbe sul tavolo Atene. Su questo Lorenzo Binismaghi viene intervistato, ex membro del board della BCE, ora presidente della SNAM, viene intervistato da Umberto Mancini a pagina 4 del Messaggero e dice: siamo a un centimetro dal baratro, se non si trova un accordo, ipotesi ovviamente deprecabile, non ci saranno più fondi a disposizione per Atene. Le banche non potranno fornire liquidità, i bancomat verranno presi d'assalto, dovranno essere messi rigidi controlli sui capitali per evitarne la fuga. Il governo greco non avrà poi le risorse per pagare stipendi e pensioni. E non credo che la popolazione greca possa essere contenta di un epilogo di questo genere. Dunque si auspica un accordo Bini-Sbaghi. Ma vedremo. Vedremo come va a finire. Oggi alle 20 inizia questo summit straordinario. Detto che il giornale fa un'inchiesta a centro pagina del giornale dicendo siamo come la Grecia, questo almeno è il titolo. Mette a paragone insomma una situazione come quella greca a quello che succede alle imprese italiane. Stefano Filippi: tutto è difficile in Italia, fare impresa ci vogliono 10 mesi di media per una licenza edilizia, per la verità sono 233 giorni per essere precisi, quindi quasi 8 mesi, ma siccome in una settimana si lavora 5 giorni su 7 il tempo reale d'attesa si allunga appunto e fanno 10 mesi. Bisogna mettere in preventivo 124 giorni lavorativi perché una delle tante società che si contendono il mercato dell'energia si degni di concedere un allacciamento alla rete elettrica e sono 6 mesi. Pagare le tasse a un'occupazione che in media assorbe 269 ore di lavoro. I parenti poveri della Grecia se la cavano con molto meno, 193 ore. E non parliamo dei tempi della giustizia civile, le tutele offerte a chi non viene pagato deve fare in qualche modo rispettare un contratto. In questo caso la pazienza deve essere superiore, visto che in media sono necessari 1185 giorni, dunque 3 anni e 3 mesi. Insomma, l'Italia è fra i paesi peggiori del mondo per efficienza e per fare impresa secondo tutti questi parametri. Trovate sul giornale a pagina 15-16 l'inchiesta. Veniamo a cose un po' più leggere. Oh, vi ricordate quando avevo raccontato che Vittorio Cecchigori ha tentato di recuperare il proprio appartamento dove vive Rita Rusic, l'ex moglie? È finita, scrive il Messaggero, che Vittorio Cecchigori è stato anche denunciato. Denunciato e indagato per violazione di domicilio, pagina 12 del Messaggero. Lite per la casa con la Rusic, Cecchigori finisce indagato per violazione di domicilio. È diventato dunque un affair in bilico tra il gossip e il giudiziario, la guerra tra Vittorio Cecchigori e Rita Rusic per un attico da 2 milioni di euro con affaccio su Roma. L'ex magnate del cinema, che è proprietario dell'appartamento, pensava di poter tornare in possesso senza troppi problemi e quindi si è presentato lì, mentre la Rusic, che vive da 15 anni assistita dall'avvocato Carlo Arnulfo, l'ha denunciato. E via così. Adelaide Pierucci racconta i dettagli gossipari a pagina 12. Ed eccoci qua. L'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Lo abbiamo sentito anche nel giornale radio. Leandro Del Gaudio racconta la resistenza del quartiere Barra a Napoli per l'arresto di Luigi Cuccaro, 42 anni. I carabinieri lo arrestano e la folla li aggredisce. Un gran classico. Hanno messo in strada donne, ragazzini, pur di impedire che Luigi Cuccaro, che è colui che è immortalato nelle foto sui giornali, che manda un bacio così in mezzo ai due carabinieri a tutti coloro che sono lì per sostenerlo, il boss presunto fa così. Ebbene, torna in cella, ma lui, mentre esce dalla caserma nel cuore della notte, sembra recitare il copione, comunque già scritto, già visto mille volte, baci, sorrisi, occhiolini, ammiccamenti per il proprio seguito di donne, uomini, parenti, amici, che al momento dell'arresto hanno creato momenti di grande tensione con i carabinieri. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che Alessandro Milani, il giornalista che fa impazzire mia mamma. Cos'è che ha detto il giornalista? Non ho capito niente. A che fa impazzire mia mamma? No, ma no, no, no, ma in che senso? No, no, no, no, no, smentisco categoricamente, cioè sono contento se impazzisce per chi ascolta. E allora, eccoci qua, siamo pronti a capire che cosa succede di politica attraverso la lettura dei giornali. Beh, le notizie, le due notizie più importanti sono il raduno di Pontida, della Lega, con la ruspa bella in evidenza, ormai diventato il simbolo del partito di Salvini. E poi c'è ancora la questione Marino, Ignazio Marino, che tiene duro e attacca duramente la destra. Ma partiamo da Pontida, dove Salvini, come racconta il Corriere della Sera, da uno degli inviati, Marco Cremonese, a pagina 10, ha cambiato ormai linea e la svolta c'è. Con che cosa? Beh, quelli che un tempo erano i Terun ora sono i fratelli, sono stati invitati, sono intervenuti anche una consigliera eletta in Puglia. E poi Salvini che dice: qui c'è gente che arriva dalla Campania, dal Salento, da Roma, dalla Sicilia, tutti fratelli, e se vinciamo, vinciamo tutti insieme. Di più, dice Salvini, ce ne andiamo con un patto di sangue e di cuore, saremo sempre di più, da nord a sud, finché non libereremo questa Italia, noi non molleremo mai. Insomma, un Matteo Salvini che scrive il Corriere celebra la sua Pontida, quella in cui i fratelli su Libero Suol non sono più soltanto padani, e solennizza il patto chiedendo a tutti di stringere la mano al proprio vicino. Dunque, rottamato si potrebbe dire anche tutta quella celebrazione della Padania libera, della Padania indipendente, qualcuno dice della Lega di Umberto Bossi, con il quale c'è stato qualche screzio anche verbale nei giorni scorsi. Certo, scrive il Corriere, certi striscioni come Italia, scritta con la GL peraltro, Italia di merda, secessione, appaiono e sono tollerati come le solfe del nonno un po' stordito. I nuovi simboli e i nuovi leader politici cui si ispira Salvini appaiono David Cameron in Inghilterra, che dice non vogliamo più un migrante, Viktor Orbán, che è quello del muro tra Ungheria e Serbia, e come previsto Vladimir Putin. Così anche su Repubblica, ecco il nuovo carroccio, via i vecchi. C'è anche la battuta di Calderoli: un cammello è pronto per la Boldrini se vuole andarsene in Libia. E vabbè, diciamo che ovviamente c'è anche del colore, delle provocazioni non da poco nelle dichiarazioni di Pontida, come la tradizione. Tra l'altro, oggi sul Giornale è interessante l'intervista che Alessandro Sallusti, il direttore, fa a Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi parla per la prima volta dopo un po' di tempo con un'intervista domanda e risposta. Sono ben 3 pagine, prima pagina e poi pagina 2 e 3, e parla dell'unità del centrodestra. Un Silvio Berlusconi che rottama definitivamente il patto del Nazareno. Nazareno 2? Non capisco come possa essere nata una simile ipotesi. Siamo convintamente all'opposizione, nulla è cambiato da quando abbiamo dovuto rinunciare alla collaborazione con il Partito Democratico. Poi parla dell'unità del centrodestra, anche se Berlusconi dice: beh, è ovvio che se comunque il PD presenta in Parlamento qualche miglioramento della legge elettorale o della riforma costituzionale, noi voteremmo a favore di quella norma. Comunque il PD è in forte calo, questa è l'analisi di Berlusconi, che poi parla del centrodestra. Di Fitto non parla più, dice Di Fitto dei suoi si è già parlato troppo. Parla invece di Salvini, dice Berlusconi di Salvini sul Giornale: Salvini è abile, dinamico, spregiudicato, ogni giorno in giro per l'Italia in TV, sa che ogni sua provocazione è destinata a essere rilanciata e moltiplicata, con l'effetto di fargli pubblicità anche da parte di chi pensa di contraddirlo. Insomma, è un valore aggiunto per il centrodestra. Leader di Forza Italia, invece, a causa di una sentenza assurda che verrà ribaltata dalla Corte di Giustizia Europea, è stato costretto al silenzio e tenuto lontano dalle TV. In queste condizioni è naturale che Forza Italia sia calata e la Lega sia cresciuta. Insomma, per l'ennesima volta Berlusconi certifica, dopo che per anni è stato smentito da lui stesso, che è la TV che porta voti o toglie voti, cioè chi va in TV prende voti, che è una cosa risaputa da tutti gli analisti e tutti i politologi italiani, ma insomma viene messa ormai nero su bianco anche da Silvio Berlusconi. Sì, Salvini prende voti perché va in TV, io che non posso andare in TV per la sentenza ho perso voti. Comunque, no al Nazareno bis, Renzi è il solito statalista e non un liberale. Sta dimostrando che il suo obiettivo è un controllo forte del governo sulle leve economiche del nostro paese. E poi fa un appello all'unità del centrodestra, Silvio Berlusconi, in questa intervista al Giornale. Chi invece con la destra si è accapigliato ieri alla festa dell'unità tanto da usare delle parole durissime il sindaco di Roma Ignazio Marino, il cui destino sembra sempre appeso a un filo, tanto che ieri il ministro alle riforme Boschi, intervistata da Maria Latella su Sky, ha detto ancora ripetutamente: sì, Marino è onesto, ma l'onestà non basta, e dica lui se la sente di andare avanti. Questo è il mantra renziano: dica lui se la sente di andare avanti. Per la verità Marino continua a ribadirlo dalle 15 alle 20 volte al giorno: sì, me la sento di andare avanti, non solo, andrò avanti anche con un secondo mandato, sempre che lo eleggeranno, e andrò avanti fino al 2023. Comunque Marino ieri alla festa dell'unità ha letteralmente sbroccato contro il centrodestra, nel senso che ha usato parole durissime: la destra torni nelle fogne, così ha detto la destra a Roma, ho sentito Gianni Alemanno, ma non hanno vergogna, perché non tornano dalle fogne da cui sono venuti, urla Marino facendo riecheggiare uno slogan da anni 70. Tra l'altro poi dice: ho chiamato oggi il sindaco di New York Bill de Blasio e gli ho detto che il mio predecessore, cioè Alemanno, è indagato per mafia. E dunque un Marino che tiene duro: andiamo avanti, non molliamo, ho liberato Roma, il chirurgo si giudica solo alla fine dell'operazione. Anche il Messaggero dedica due pagine a questo tema: Marino, la destra torni nelle fogne, ma Boschi dice se serve sia lo scioglimento. Per lo scioglimento l'articolo più interessante sembra quello di Repubblica, perché Repubblica con Giovanna Vitale a pagina 13 anticipa quello che sarebbe l'intendimento del prefetto di Roma Franco Gabrielli. Sapete che è stata fatta una relazione da una commissione, è stata affidata al prefetto. Ora il prefetto Gabrielli dovrà trarre le proprie conclusioni sulla possibilità di scioglimento o meno per mafia e girare le proprie conclusioni al Ministero dell'Interno, dove poi la commissione Alfano deciderà. Però certo il parere del prefetto Gabrielli è fondamentale, e secondo Repubblica l'indicazione di Gabrielli è questa: non è obbligatorio lo scioglimento, non ci sono gli estremi per lo scioglimento del comune di Roma per mafia. Il prefetto di Roma Gabrielli il suo orientamento lo ha già esposto al Ministero dell'Interno e al ministro Alfano. Dalle quasi 900 pagine di relazione firmata dalla commissione di accesso agli atti, che per 6 mesi ha scandagliato ogni delibera, verbale d'aula, direttiva, gara d'appalto, emergerebbero gravi violazioni di legge, ma i presupposti per sciogliere la capitale per mafia, no. Il parere del prefetto è quasi pronto e nelle prossime 2 settimane verrà consegnato ufficialmente al Viminale. Certo, nel documento non si esclude il commissariamento per i tanti reati commessi, ma non per mafia. Quindi scioglimento per mafia no, ma commissariamento per i tanti reati forse sì. E poi, come al solito, bisogna aggiungere: chi lo sa e chi vivrà vedrà. Vero Mauro Meazza, buongiorno, caro Mauro. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Buongiorno. Bene, bene, grazie. Tu stai bene, eh? Benissimo. Allora, mancano 19 che... sveglia all'alba e quindi benissimo. Ah, no, forse 24. Che mi 24, adesso, perché adesso nel 2023 vai in ferie, quindi... Sì, esatto. Però devi deciderlo tu, mi viene da dire, se ritirarti prima del 2023 oppure no. Senti, è una giornata importante per i mercati, come abbastanza, sai, per la Grecia. Allora, sarà invece una giornata tranquilla, mi immagino, per il mercato del Milan, visto che non ha, allora, abbiamo non ho... noi abbiamo Bonera, teniamocelo stretto. Ma certamente, fino a che lui deve decidere un po' cosa vuole fare, insomma, se andasse via anche lui. No, scherzi a parte, giornata qui sì, verrebbe da dire decisiva per la Grecia, così lo raccontiamo anche sul Sole 24 Ore oggi, soprattutto andando a vedere quali sono i punti di dissidio aperti. Vediamo come va a finire il vertice di oggi, se si trova come pare un accordo un po' in extremis. E poi hai pagato le tue imposte, caro sì, Alessandro? Come no, sempre. Oh, hai fatto bene. perché hai visto che ogni 13 giorni cambia una regola nel testo unico. Ogni 13 giorni, sì. Quindi sbrigati a pagare, perché magari scatta il 13° giorno, è cambiata la regola. No, scherzi a parte, abbiamo fatto il conto dall'entrata in vigore del 1988, quindi roba del secolo scorso, caro mio, e da oggi quante modifiche ci sono state, ci risulta proprio così, una ogni 13 giorni. Figurati quelli che, come i commercialisti, poi te le devono spiegare, che fatica fanno, praticamente ogni 2 settimane si devono fare una telefonata per informarti. Ma parliamo anche di migranti, hai visto, sì, il Sole 24 Ore di oggi c'è, sì, c'è una bella pagina, puoi farla vedere anche agli ascoltatori. Come vedi c'è anche un po' grande, una quindi impalla un po' il microfono, ma penso che si veda. Sì, ma si vede abbastanza bene, infatti. Ecco, perché non solo c'è tutta una riepilogo delle cifre che purtroppo contraddistinguono questa emergenza, ma anche delle regole, quindi Dublino, Chambéry. Io non sapevo che prima di vedere questa pagina esistessero anche i dublinati, cioè coloro che sono soggetti alle intese sottoscritte a Dublino, ma è tutto molto più chiaro nella pagina redatta da Rossella Cadeo per il Sole 24 Ore di oggi. Oh, poi i tuoi due urini, oggi ti spieghiamo come scegliere un fondo comune, e muovi di questi due urini, insomma, Alessandro, non si compra un giocatore al Milan, fai qualcosa, infatti, si potrebbe. Oppure, però metti lì magari, chissà. No, ma esulta, godi, che anche quest'anno il campionato di luglio, giugno e agosto è vinto. Caro Alessandro, ormai a te e a me è rimasto solo questo campionato, no, a me qua, neanche quindi quello, ci dobbiamo a me sfogare, neanche ci dobbiamo sfogare qui. Va bene, no, ti volevo dire, i tuoi due urini, ti diciamo nell'Esperto Risponde, sai l'allegato che ogni lunedì c'è con il Sole 24 Ore, ti spieghiamo come scegliere un fondo comune. E poi, anche se è lunedì, parliamo di condominio. E vabbè, vi state, sai che di solito succede il martedì, ne parleremo anche domani naturalmente, ma oggi ne parliamo con l'ebook. Senti Mauro, se non ti faccio salutare, o meglio, se non ti saluto Elena... Che mi dice mi scrive, io non voglio creare, ma dice adoro assolutamente Mauro Meazza, devi salutarmelo in diretta. Elena, se vuoi il cellulare poi dopo te lo do, nel senso volentieri, penso no, che come penso volentieri che sia... tu devi dire no, certamente no, ma penso che sia in realtà una mia parente oppure un creditore, parli a nome di un creditore, per quello così tanta degnazione nei miei confronti che assolutamente non merito. Comunque ti stavo dicendo, in allegato, con tanti saluti naturalmente a Elena, in allegato un ebook anche per Elena in regalo con l'Esperto Risponde, utilizzando il codice che trovate nel nostro allegato. E poi parliamo di job site, tanti altri cose, ma adesso vorrei andare a seguire davvero il mercato i mercati, scusami, mi sfugge sempre questa cosa qua, e quindi ti saluto con l'abituale grido: traffico! Alessandro Milan, il dolce gabbano dell'informazione. E va bene, allora, la questione dei migranti è anche ben presente sugli altri giornali, non solo sul Sole 24 Ore, perché ieri c'era Hollande a Milano per l'Expo. E allora, pace fatta, raccontano i giornali, pace fatta anche con un po' di baguette sulla quale Renzi ha detto a Hollande: ci metterei un po' di Nutella. Hollande non ha replicato, ha taciuto, ha solo sorriso. Comunque Hollande dice sui migranti: io rispetto le regole, questo è il senso dell'incontro tra il presidente francese e il premier dopo le tensioni di Ventimiglia, anche se sul Corriere della Sera, come racconta Elisabetta Rosaspina, Hollande dice: noi, e quando dico noi mi riferisco all'Europa, abbiamo il dovere di aiutare l'Italia, siamo tutti assieme uniti e non c'è un paese che debba prendere un fardello superiore agli altri, non perché l'Italia è situata a sud dell'Europa con le sue coste o alla Grecia o a Malta. Sì, belle parole, poi in realtà la verità la sappiamo è ben altra. Lo stesso Renzi ha parlato del trattato di Dublino, quello che obbliga il paese dove arrivano i migranti a esaminare la domanda di asilo. Non vedo grandi spazi per la revisione dei trattati, dice Renzi. Firmare quell'accordo non è stata una buona idea per l'Italia, ma non voglio fare facili demagogie incolpando il governo di allora. Sta di fatto che il patto della baguette chissà se terrà. Se c'è un riavvicinamento tra Italia e Francia, invece litigano in Liguria il neogovernatore Toti e il cardinal Bagnasco, che è anche di Genova, presidente della CEI e cardinale a Genova. Bagnasco dice in pratica di accogliere migranti, e Giovanni Toti, neogovernatore della Liguria, intervistato da Michela Bompani su Repubblica: premier e vescovo lascino stare la Liguria, qui basta profughi. Al premier lo dirò in faccia giovedì e al cardinale l'ho già detto, non accogliamo un profugo in più. Quella del cardinal Bagnasco mi pare una predica a orologeria. È vero che il suo richiamo è coerente col ruolo della Chiesa, ma nei modi e nei tempi i suoi interventi a chi pensa male appaiono politici. È già accaduto durante la campagna elettorale, si dice che la moglie di Cesare, oltre che apparire onesta, debba esserlo, vale anche per le autorità morali. Così il dura, la dura replica di Toti al cardinal Bagnasco. Tra l'altro noi parleremo invece del piano Rom dei comuni con la collaborazione del ministro dell'interno. Il piano è previsto presto e cercheremo di capire i dettagli con Piero Fassino, che è il sindaco di Torino, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni, dalle 8:15. Si è parlato dei rapporti tra Toti e la Chiesa. Il numero uno della Chiesa, cioè il Papa, è a Torino in questi giorni. Ieri ha pregato la sindone, oggi ci sarà uno storico incontro con la Chiesa valdese, al Tempio Valdese. Ieri il Papa ha parlato di lavoro, ha incontrato anche Marchionne, che era a Torino, ha parlato di lavoro ai giovani, ha detto anche questo invito ai giovani: siate casti. L'amore non è quello delle telenovelas. D'altronde, ha aggiunto Papa Francesco, io voglio dire una parola impopolare, perché anche il Papa ogni tanto deve rischiare. Senza voler fare il moralista, vi dico che l'amore è molto rispettoso delle persone e non le usa, è casto. E in questo mondo edonista, dove la pubblicità, dove a pubblicità solo il piacere, passarsela bene, io vi dico di essere casti. Questo è l'appello che conquista un po' le pagine dei giornali. La stampa dedica, per la verità, 5 pagine alla visita del Papa a Torino, come è comprensibile. Il Papa a Torino, appello ai giovani in amore, siate casti, e anche il titolo di Repubblica a pagina 21. Voglio andare velocemente ad alcune notiziuole, a cominciare da quella che coinvolge Fabrizio Corona, l'ex paparazzo, sappiamo, ormai uscito dal carcere, la comunità Exodus di Don Mazzi, a pagina 14 del Giorno. Corona ricomincia dalle foto. Ma com'è dalle foto? Forse farà il professore a scuola, in una scuola di fotografia. Lui che, per sua stessa ammissione, come dicevo prima, alle 6:30 ha detto di non avere mai scattato una fotografia in vita sua, cioè non sa neanche come si facciano le fotografie. Le sa vendere, questo sì, le sa giudicare. Comunque comincia facendo il professore a scuola di fotografia. Lo mostro anche, visto che siamo in diretta su Periscope. C'è una bella pagina del Fatto Quotidiano mitica sul subbuteo. Ve lo ricordo? Ricordate il subbuteo, un'intera pagina, pagina 13, il calcio in casa, l'Italia resta al baluardo degli ominiini. Il subbuteo, quanta nostalgia, quanti tornei, con mio fratello Daniele, quante battaglie, quante risse, quanti insulti, quando eravamo un po' più giovani, partite di subbuteo. C'è anche una intervista a Sara Tommasi, o meglio qualche parola di Sara Tommasi, il Corriere della Sera. Sapete che insomma ha una vita, come dire, un po' turbolenta, pare che voglia per l'ennesima volta ricominciare buttandosi il passato alle spalle. Sognavo la fama, cancellerei tutto, e a Chioggia da amici a curarsi. Ho incontrato tante persone sbagliate, l'ultimo Andrea Di Pre, che ho lasciato 3 settimane fa, non è facile ritrovarsi, riprova Sara Tommasi. C'è la ripartenza Milan, prepara Peter questa cosa. Intanto però siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui: niente selfie, sono la regina. C'è mezza pagina sul Corriere della Sera di Michele Farina, che racconta tutto il, come dire, il manuale per gli invitati che vogliono incontrare la regina. L'abbigliamento: basta un informale lounge suite, che non vuol dire casual, però no casual dalla regina, non si va casual. L'inchino è gradito. Aspettare di essere presentati e mai fare foto, mai alla regina, mai. Ma chi se ne frega. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qua, sono le 8:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, succede l'insuccedibile, si può dire l'insuccedibile in radio? Ragazzi, è lunedì, ma abbiate pazienza, è lunedì, si è appena aperta una settimana, la 112esima peraltro, decisiva per l'abolizione delle province. Allora, succede che dovremmo parlare del piano, il piano Rom, quello previsto dal Ministero dell'Interno per dare fondi ai comuni per superare i campi Rom. Questo sarebbe il piano del ministro Alfano, che la scorsa settimana ha twittato addirittura smantelliamo i campi Rom, un qualcosa che sembrava molto uno slogan salviniano. Ovviamente così non è, visto che Alfano e Salvini sono i due più acerrimi nemici politici. Ma tra l'altro ce l'abbiamo Salvini, che ovviamente ieri a Pontida si è presentato con una bella ruspa, lui che sapete ha detto le ruspe le useremo contro i campi Rom, ma in questo caso la ruspa dice serve ad altro. Salvini: prima mandiamo a casa Renzi e poi sgomberiamo i campi Rom. Prima Renzi e poi i campi Rom. No, dicevamo, dobbiamo parlare di questo piano Rom, e avevamo ospite il sindaco di Torino Fassino, che è presidente dell'ANCI. Se ci sente, presidente Fassino, però non sta rispondendo al cellulare, quindi in questo momento non può rispondere. Io voglio ringraziare, perché l'abbiamo chiamata all'ultimo momento, Diana Pavlovic, già nostra ospite varie volte. Buongiorno e ben ritrovata Pavlovic, come sta? Buongiorno, l'abbiamo sbrandata, mi sto preparando, l'abbiamo svegliata, il bambino all'asilo. Ah. Allora, c'è questo piano Rom che arriva dai comuni, che coinvolge i comuni al Ministero dell'Interno, che vuol dire in sostanza dare dei soldi ai comuni che li possono utilizzare per fare degli insediamenti abitativi e superare anche i campi Rom. Intanto, il superamento dei campi Rom è un obiettivo legittimo e giusto? Ma io penso che il superamento dei campi Rom deve avvenire, però deve avvenire non per i piani vari e non in modo in cui poi sono stati concepiti i campi, perché i campi li hanno inventato le istituzioni proprio, cioè molti dei campi sono nati perché è stata fatta l'emergenza nomadi, come adesso piano Rom, no? E io penso che devono essere superati. Perché i Rom e i Sinti stessi li superano, perché decidono di uscire spontaneamente, sì, perché hanno dove andare e perché hanno un lavoro, perché si sono inseriti, ed è una scelta loro, personale, scelta. E non un piano. Beh, nel momento in cui però questa scelta personale non avviene, sappiamo che nei campi Rom in alcuni non ci sono degli standard né di sicurezza né di condizioni igieniche adeguate. Allora è legittimo, voglio dire, che un governo dica superiamoli, non certo con le ruspe di Salvini, con le quali lei ha già litigato varie volte, ma garantendo dei fondi per dare degli insediamenti abitativi, e poi chi ci sta, chi non ci sta non può vivere più in quelle condizioni. Io penso che il governo non debba fare l'errore che è stato fatto sempre fino ad ora, cioè non coinvolgere mai le comunità Rom e Sinti quando fa la pianificazione per i Rom e Sinti, senza dialogare sia con quello che è la rappresentanza dei Rom e dei Sinti, sia con delle persone direttamente coinvolte, non potrà esserci mai un piano adatto e un piano che possa funzionare, nel senso che tutte le cose che sono state fatte, tutte le politiche che sono state fatte fino ad ora, ma persino no, i milioni dell'emergenza nomadi che sono finiti nelle tasche, no, di sì, vari attori della mafia capitale, sono stati stanziati, i soldi sono stati stanziati dal Ministero del Governo, li hanno dato ai comuni. No, però io non ho capito bene che cosa ci sia di male in questo progetto, che è un progetto, ripeto, non un progetto che è quello di radere al suolo to cure i campi, e questo è il progetto che sappiamo e che già lei ha criticato, di Salvini. Però qui c'è un governo che dice mettiamo anche dei soldi per... Sa che c'è? Ma io non c'è nulla di male fino adesso. E la mia è la prudenza, perché per tanti anni ho visto quello che succede. Io penso che i soldi devono essere stanziati quando c'è una pianificazione, quando si sa esattamente cosa si vuole fare su progetto, non così, perché vari comuni hanno vari governi, insomma persino ora io non ho sentito mai nessuno dei governanti a dire come faranno a superare questi campi, perché guardi che adesso in questo momento il Comune di Milano stanno spendendo 4 milioni di euro, sì, all'anno. Per superare i campi facendo dei centri di accoglienza, che fino ad ora, cioè, cosa fanno con questi soldi? Sgomberano, mettono le persone in centri di accoglienza dove non c'è nessuna prospettiva, li mettono da una parte all'altra, né di lavoro, né, e il risultato dei 4 milioni di euro sono 9 posti di lavoro. Sa quanto le costa un posto di lavoro in questo modo? Il problema è che poi le persone escono in questi centri di accoglienza, rifanno le loro baracche, perché non e 4 milioni di euro li messa così, messa così effettivamente sembra spostarli da un posto all'altro, giusto per chiudere il campo Rom e dire ho chiuso il campo allora Rom. È legittimo da parte nostra chiedere di avere prima il progetto, sì, e poi stanziamento dei soldi, discutere il progetto e pianificare il progetto. La questione Rom, che molti e tante volte ne abbiamo parlato di questa questione, intanto voglio ricordare il numero se volete intervenire anche gli ascoltatori, 800 24 00 24. No, ne abbiamo parlato varie volte, Pavlovic, dell'idea che c'è sempre da parte della comunità di Rom e Sinti soprattutto una serie di richieste, dice vogliamo vedere prima che, ma sai che molti italiani non hanno nessun tipo di garanzia dell'andare a trovarsi un lavoro, dell'andare a trovarsi un'unità abitativa. Non è una garanzia abitativa per i Rom e Sinti, guardi, è una garanzia per tutti noi, cioè quello che è stata l'esperienza finora è stato il fatto che i soldi di tutti noi sono spesi in vano, e dunque noi se l'obiettivo è quello di superare i campi, migliorare la vita e la condizione di vita dei Rom e dei Sinti e di conseguenza anche di tutti i cittadini, quelli che gli stanno intorno, dobbiamo capire quali sono le politiche che portano a questo obiettivo a low cost, cioè pochi soldi, tanti risultati. Il problema nostro è che pretendiamo semplicemente di essere coinvolti nella progettazione. Questo è una richiesta legittima, cioè è anche responsabilizzata, cioè vogliamo anche la responsabilità, però anche coinvolgimento. Nessuno mai ci ha coinvolto nella progettazione delle politiche dei Rom e Sinti. Neanche... È come se voi aveste, cioè, non so, non succede con nessun'altra comunità. Quando ci sono di mezzo i cinesi, si invitano i cinesi, si pensa. Ma perché abbiamo parlato anche di questo varie volte. Nessun'altra comunità vive così in campi, in alcuni casi anche abusivi. I cinesi non vivono in questo modo, no? No, ma non importa. Cioè, il principio è quello di certo non vivono, ha ragione, poi possiamo discutere anche dei motivi per i quali, eccetera. È molto complessa la situazione. Però il principio è quello di coinvolgere i diretti interessati nella progettazione. Cioè, questo garantisce il successo del progetto, la responsabilizzazione delle persone, che è una cosa fondamentale. Se le persone progettano, si sentono coinvolte, sono responsabili della riuscita del progetto e possono anche dare qualche idea che non è esattamente... quando allora Alfano dice, l'ho detto anche al giorno due giorni fa, venerdì, voglio mettere mano a questa vicenda in termini radicali eliminando per sempre i campi nomadi, guardi, non è Salvini che parla, è Alfano, che anzi politicamente è forse agli antipodi rispetto a Salvini, la preoccupa quando sente il ministro dell'interno dire così oppure no? Ma mi preoccupa conoscendo l'incompetenza per quanto riguarda la questione, capisci? Cioè, il problema è stata la incompetenza, il meccanismo in Italia che è fatto dell'assistenzialismo, cioè quello che prima le ho detto dei sì, centri dove di accoglienza, dove mangiano sempre tutti, quando c'è questa, no, l'annuncio della politica radicale come l'emergenza nomadi, eccetera, eccetera, a me preoccupa. Io penso che la garanzia, cioè ci deve essere una garanzia sia per i rom e sinti sia per i cittadini di cui i soldi vengono stanziati, o no? Poi le chiedo un attimo di Salvini, sentiamo due ascoltatori, perché Salvini ha detto che la voleva denunciare per quello che lei ha detto anche qui, l'ha paragonata a Hitler, l'ha denunciata, gli è arrivata una denuncia? No. Ma anche perché sarebbe... Vabbè, insomma. Io non ho detto quello, basta sentire le registrazioni. Vabbè, noi ce l'abbiamo adesso. Anche perché le arriverebbe una controdenuncia. Ah, addirittura, a colpi di... Perché non ha nessun motivo per cui... Sentiamo Marco da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno sì. Ai suoi ascoltatori e ai suoi ospiti. Io sto ascoltando attentamente la signora che parlava in questo momento. Ogni volta che si parla di nomadi, di rom, di sinti, come si preferisce appellarli, sembra sempre di parlare di bambini un po' speciali al quale va consentito tutto quanto e vanno un po' anche coccolati e un po' protetti come si fa con i cuccioli di panda nel WWF, perché altrimenti si temono le ritorsioni, si temono di essere accusati di razzismo, xenofobia e tutte queste paroline. Invece no, lei dice no. Basta entrare in un campo rom e si vede che l'illegalità è la chiave principale su quale vivono queste persone. Sì. E se in più le si accontenta fornendogli case gratis, acqua gratis, luce gratis, agevolazioni gratis, queste persone saranno sempre incentivate a vivere nell'illegalità. Quindi lei dice, io non lo farei. È sbagliato l'atteggiamento. Ma è sbagliatissimo l'atteggiamento. Quindi lei che farebbe? Lo so che lei non è un politico, non deve dare le risposte, devono dare i politici. Ma io farei una semplice cosa: metterei i campi rom devono essere militarizzati, le persone devono trovarsi assolutamente un lavoro entro breve tempo, devono essere inseriti forzatamente in circuiti lavorativi, in circuiti di legalità, e l'illegalità deve essere completamente rasa al suolo assieme ai campi, non si può fare altrimenti. La militarizzazione dei campi però è una cosa che un po' mi inquieta, visto che non lontano c'è stato, però ha sentito Pavlovic le proposte di Marco, le faccio sentire anche Marco dalla provincia di Caserta, però poi risponde, Marco. Salve, buongiorno sì. A tutti. Senta, volevo dire, io non capisco perché il governo ad oggi deve stanziare ancora dei fondi per dare delle case a Rom. Io non sono razzista, per carità, però volevo solamente dire che noi italiani la casa ce la siamo comprati da noi. Il lavoro ce l'abbiamo... è la perplessità che hanno molti, effettivamente. Cioè, io non è che sono razzista, però a me... Non lo deve specificare. Perché mi sembra se uno... Ma dica la sua senza premettere, che non è razzista. Per me dovrebbero lasciare i campi, cercarsi un lavoro e trovarsi loro una casa, scriversi alle liste delle case popolari, normalmente come fanno tutti. Come fare tutti. Questa è l'integrazione, secondo me. Questa è l'integrazione. Bene, risponde Diana Pavlovic, che pensa? Ma penso che l'assistenzialismo è vero che è devastato le nostre generazioni, nel senso che al di là di secondo me follia, no? I campi militarizzati, queste cose qua, l'assistenzialismo ha devastato le nostre intere generazioni, perché certo i campi non li abbiamo inventato noi, l'hanno inventato le istituzioni per i rom e sinti, perché ci sono campi, l'unico paese che ha i campi istituzionalizzati, cioè regolari, dei comuni di Milano, di Roma, sì. Di Torino, eccetera. Ma che risponde? Però l'ascoltatore che dice a noi italiani nessuno ci dà la casa, i soldi per la casa, per insediamenti abitativi. Lasci perdere che magari la mafia se li è mangiati, ma in teoria erano soldi per dare insediamenti abitativi. Genere si stanziano, c'è una cosa che si chiama welfare, eccetera, eccetera. Sì. I soldi vengono investiti nel assegnare, per esempio, le case popolari a chi non è in grado di comprarli, eccetera, eccetera. Il problema è che i rom e sinti, per esempio, in gran parte non accedono e non possono accedere. Per dire, l'esempio è sempre di Milano, se uno vive in un campo nomadi, nonostante abbia fatto la richiesta per la casa popolare da 20 anni, no, è proprio in graduatoria, esiste un regolamento per la graduatoria che ti toglie i punti se vivi in un campo, no, ma ecco, dunque possiedi una roulotte, no? O per esempio una piazzuola, perché è una struttura del comune che tu già, e dunque non sei considerato in emergenza abitativa, e dunque non riescono ad accedere. Quindi questa è già una risposta. Mi faccio sentire anche Domenica da Pescara, ci chiama. Domenica, buongiorno. Buongiorno, Domenico, scusi. Domenico, sì. Niente, io volevo dire solo una cosa, ma c'è una guerra in Romania, in Bulgaria? No. Non esiste una guerra, ma noi perché dobbiamo tenere questi rom? Ma i rom non sono rumeni. La maggior parte sono rumeni, sono alcuni. Bulgari. La maggior parte sono italiani, per la verità. I rom. No, perché sono nati in Italia, nei campi rom. La maggior parte dei rom sono italiani, le do questa notizia. Ma io voglio soltanto capire una cosa: una volta che noi chiediamo pure la casa a queste persone, da premettere che ci sono molte persone che la casa non ce l'hanno e stanno in dottore da anni. L'abbiamo detto. Chiediamo anche la casa, dopo non hanno un lavoro, ma questi che cosa fanno? E dopo il comune deve pagare anche l'affitto, la corrente, tutte queste cose, gli diamo anche il sussidio, ma la vogliamo finire di fare sempre queste cose belle? Noi con il tasso di disoccupazione che esiste in Italia non ci possiamo permettere di far venire altra gente. Domenico, guardi, no, ma è quello che di Anna Paolo dice un po' il coro delle persone che però... magari che ha ragione, ha ragione. Se uno dice io ti voglio... Voglio partire dalla casa, cioè voglio partire dalla battaglia, dopo 30 anni che queste persone sono segregate nei campi, io voglio partire dall'abitare e dunque abbattere i campi e metterli nelle case. Ma il problema è come pagano queste case se non hanno un lavoro? E lei dice il lavoro nessuno glielo dà perché è un problema di discriminazione, cioè voi potete dire quello che volete, dovete provare ad andare in giro con una carta d'identità con scritto campi, indirizzo di un campo nomadi e cercare il lavoro e vedrete. Cioè, forse certo, bisognerebbe essere il principio contrario, cioè iniziare a trovare un lavoro, e subito uscire dal campo rom, perché tutto lì tutto quello che noi su cui dobbiamo investire è il lavoro, cioè rendere le persone autonome, perché poi possono scegliere da sole andarsi a abitare una casa o accedere a una casa popolare. Cioè il lavoro è la chiave, se uno fa la progettazione deve partire da lì. Allora facciamo così, delle persone. Intanto vedremo questo piano se sarà concretizzato. Io intanto la ringrazio molto Diana Pavlovic per essere stata con noi e ovviamente alla prossima. Gli ascoltatori possono continuare a chiamare all'800 24 00 24, torneremo anche con qualche ascoltatore, ma avremo ospite anche dopo la pubblicità, tra 3 minuti, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer, per cercare di capire anche e partire dal tema immigrazione. Sapete che tra Italia e Austria c'è stato qualche problemuccio, non solo tra Italia e Francia. State con noi. Allora, alle 8:40 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come dicevamo, non c'è solo il fronte Italia-Francia sulla questione migranti, c'è anche, ieri Hollande era in Italia, pare che sia tutta conclusa questa vicenda, è finita a baguette, la baguette dell'amicizia tra Renzi e Hollande, con Renzi che ha detto ci metterei anche un po' di Nutella su questa baguette, e Hollande che ha sorriso, è stato zitto, si ricordava forse l'uscita improvvida del suo ministro all'ecologia Ségolène Royal. Ma c'è un altro fronte, che è quello tra Italia e Austria, anche questo sui migranti abbastanza caldo. So che il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha incontrato l'ambasciatore austriaco in Italia. E allora, presidente Arno Compaccer, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Ha incontrato l'ambasciatore austriaco nei giorni scorsi. È una situazione delicata tra Italia e Austria? Direi che la situazione è sotto controllo. Noi abbiamo agito tempestivamente, abbiamo ovviamente i richiedenti asilo che ci sono stati assegnati, che sono 567 attualmente, e abbiamo stabilito in 6 strutture, ovviamente prevedendo tutto quello che è necessario. Poi ci sono le persone in transito, ovviamente, ecco. Quelle che notoriamente vengono bloccate anche al confine del Brennero e poi tornano indietro e si fermano alla stazione o del Brennero o di Bolzano per ritentare. E qui agiamo con l'assistenza anche di associazioni volontarie, la Caritas, Volontarius, Croce Rossa, ovviamente, ma anche con le forze della protezione civile. Per gestirli. Però mi faccia capire, presidente, secondo lei, dal suo punto di vista, l'Austria fa bene a respingere questi migranti? Beh, se fa fa bene è un conto. Ovviamente lo fa in base all'accordo di Dublino, perché prevede che il primo paese dove i profughi arrivano devono accoglierli. Quindi non violano le leggi? Loro ovviamente adempiono alla legge, però sappiamo che questo alla fine crea a noi grosse difficoltà, perché i profughi comunque hanno la meta, come meta, i paesi nordici come l'Austria appunto, la Germania, la Svezia e così via. Lei questo gliel'ha detto all'ambasciatore, immagino gliel'abbia fatto presente, cioè, però è una questione di solidarietà, se vogliono ce la danno, altrimenti loro appunto non violano alcune regole. Beh, noi richiediamo ad alta voce la revisione dell'accordo di Dublino, l'abbiamo fatto anche assieme al presidente del Bundesland del Tirolo, cioè Austria, il Trentino, il Sud Tirolo, ma anche la Baviera, lo chiediamo tutti, perché la situazione attuale è così, non è gestibile, deve esserci uno sforzo di tutti i paesi europei, dell'intera comunità, e perciò va rivisto l'accordo e ci vuole una ripartizione equa su tutti i paesi. Dovessero arrivare nuove persone, sa che ci sono molti amministratori, come per esempio il presidente della regione Liguria ha detto: da noi qui non ne vogliamo uno in più. La vostra posizione cos'è? Qual è? Siete disposti ad accettare altri in provincia? Beh, noi saremo disposti a accettarne altre, perché è una questione umanitaria. Noi facciamo il nostro dovere sul fronte umanitario, però comunque bisogna trovare la soluzione a livello europeo, perché altrimenti sicuramente anche noi andremo incontro a delle difficoltà non più gestibili. La decisione a livello europeo mi sembra un po' al di là da venire, perché non c'è molto accordo al di là della baguette. Non so se hai visto anche lei le foto mangiate tra Renzi e Hollande. Certo. Pure con la Nutella. Pure con la Nutella, sì, però non mi sembra che ci sia molto, a parte le dichiarazioni di intenti, molta collaborazione fattiva poi. Questo è il problema proprio, però io credo che a medio termine sicuramente anche gli altri paesi europei dovranno trovare questa sintesi con noi, con tutti gli altri paesi che adesso stanno accogliendo i profughi, perché io credo che alla fine sarà anche la Merkel e altri che dovranno imporsi in qualche modo, perché questa sicuramente non è una situazione sostenibile. Senta, Presidente Compacer, io quando si parla di autonomia sa che si scatenano sempre le gelosie magari tra i vicini. La Regione Veneto, per esempio, ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di stabilità italiana, che di fatto vi dà la possibilità di avere ancora nuove competenze esclusive su tasse e tributi locali. Insomma, il Veneto è un po' geloso di questa vostra autonomia, lei lo sa. Lo sappiamo, però innanzitutto bisogna sottolineare un aspetto: l'autonomia ci è stata data come mezzo, come strumento di difesa, diciamo, della popolazione austriaca di lingua tedesca e ladina. Grazie all'autonomia possiamo studiare la nostra madrelingua e usare il tedesco anche con tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Questo è il fondamento dell'autonomia, che è anche tra l'altro un ancoraggio internazionale. Però al di là di questo, spesso questa gelosia è dovuta al fatto che c'è una malinformazione. Noi non siamo tra quelli che prendono soldi dallo Stato, anzi noi siamo tra le poche regioni che contribuiscono all'abbattimento del debito pubblico. Questo basta consultare il sito del Ministero per lo Sviluppo Economico, lì ci sono i conti pubblici territoriali e si vede che noi siamo già al quinto posto, dietro solo alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna, al Piemonte, poi arriva già l'Alto Adige, che contribuisce in modo sostanziale al risanamento del debito pubblico. Però vede, il Veneto è davanti a voi e quindi dice con l'autonomia potremmo contribuire ancora di più. Ma quindi lei sicuramente hanno ragione, io sicuramente su questo sono al loro fianco, solo che sbagliano target, cioè loro dovrebbero chiedere più autonomia per poter gestire meglio le loro cose. Noi eravamo un paese originariamente molto povero, montuoso, senza industria, niente. Con l'autonomia siamo riusciti a gestire bene e così riusciamo anche a contribuire, e anche il Veneto potrebbe sicuramente fare di più, perché loro sono bravi a amministrare. E da lì la gelosia. Comunque lei dice che sbagliano a fare questo ricorso, immagino. Beh, sbagliano a fare questo ricorso, dovrebbero chiedere loro più autonomia, più potere di autogoverno. No, e così potrebbero anche loro contribuire ancora di più. Ho letto invece che sul fronte Lombardia Trentino, ma è vero che avete fatto uno studio di fattibilità tecnica e economica per realizzare un collegamento aperto tutto l'anno sotto il passo dello Stelvio tra Lombardia e Trentino? Beh, siamo ancora a livello di studi di fattibilità. Questo tra l'altro viene finanziato interamente anche con fondi della provincia autonoma di Bolzano. E stiamo studiando, poi vediamo se è davvero fattibile un progetto del genere. Buttiamoci in avanti, quando potrebbe, se fosse fattibile, addirittura arrivare a un collegamento del genere? Si parla di quanti anni eventualmente? Ma sicuramente di tanti anni, perché dallo studio di fattibilità si deve poi trovare un finanziamento, un progetto vero e proprio. Sicuramente ci vorranno ancora molti anni. Per concludere, presidente Compaccer, di recente c'è stata una polemica che l'ha anche coinvolta, no, nel centenario della commemorazione della prima guerra mondiale, per il fatto che lei è invitato a non esporre la bandiera italiana, o meglio non issare il tricolore. Ma come mai lo ha fatto? Beh, l'ho fatto perché un inizio di una guerra, secondo me, non è mai un motivo per festeggiare. Cioè, esporre le bandiere vuol dire festeggiamo. Io avrei accolto volentieri un invito a esporre le bandiere a mezz'asta, però questo non era l'invito. Esplicitamente la lettera della prefettura diceva: in occasione dell'entrata in guerra si espongono le bandiere. Non c'è nulla da festeggiare. Secondo me era assolutamente fuori luogo. Cioè, perché qualcuno l'ha visto più una vicinanza verso l'Austria, questo non volere esporre l'orgoglio di essere italiani. Ma la vicinanza verso l'Austria comunque c'è, perché noi siamo la minoranza austriaca, però questo non vuol dire che non ci atteniamo, diciamo, a quello che sono ovviamente inviti anche sensati. Per esempio, c'è stato poi davvero l'invito del Consiglio dei Ministri per un minuto di silenzio. Io ovviamente questo invito l'ho accolto, perché le vittime della guerra si commemorano in questo modo, ma non festeggiando. Non la bandiera, quindi, però lei la bandiera italiana ce l'ha a casa, sì. A casa non ce l'ho. Non ce l'ho. però ovviamente gli uffici pubblici la spongono, sì, in ogni occasione. Ma, che ma come mai non ce l'ha? Perché non la sente? C'ha la bandiera? No, guardi, che bandiera ha in casa? Se ha una bandiera? No, nessuna bandiera in casa. Io sono cittadino italiano, però faccio parte di quella minoranza austriaca, perché ovviamente, come lei sa benissimo, dopo la prima guerra mondiale una parte del Tirolo, che era sicuramente in lingua italiana, che è il Trentino, è passata all'Italia, ma anche l'altra parte, che era di lingua tedesca, che era austriaca, e noi comunque facciamo parte di questo gruppo etnico di minoranza. No, questo sì. Beh, non ha neanche la bandiera austriaca, questo voglio dire, a casa. No, io a casa mia non ho nessuna bandiera. Nessuna bandiera. Va bene, intanto la ringrazio molto, presidente, per essere stato con noi. Grazie. Prego, Arno Compaccer, presidente della provincia autonoma di Bolzano. Quando sono le 8:50 minuti, prima degli ascoltatori, se ci stanno, è il traffico che ora impera. Allora, le 8:52 minuti, Alessandro da Treviso. Treviso, buongiorno. C'è anche un Alessandro da Rimini, tra poco arrivo, Alessandro. Prima buongiorno. Treviso. Dica. Buongiorno. No, una piccola riflessione riguardante i Rom. No? Sentivo giustamente che devono, per uscire da questa vicenda, andare a lavorare, trovarsi un lavoro, che è un elemento fondamentale per poter uscire appunto da questa cosa. Io sono un piccolo datore di lavoro, vorrei sapere quanti imprenditori, nel momento in cui scoprono che chi richiede lavoro è un Rom, sono disponibili ad assumere. Fa una bellissima domanda, Alessandro. Infatti qui sta il circolo vizioso dal quale poi non si riescono a togliere da questa situazione, perché anche Diana Pavlovic prima ha detto: prima l'autonomia al lavoro, ma se io mi presento dicendo: ma tu dove sei, dove vivi? Un campo Rom, chi è che glielo dà il lavoro? E quindi non si liberano così. Alessandro da Rimini, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno, mi sente? Sì, bene. Bene, dunque sì, anch'io una considerazione su questa cosa. In tono, diciamo, polemico, ma anche da ignorante, mi piacerebbe sapere, siccome penso che la vita di ognuno di noi si fondi prima che sulla casa, sul lavoro, ovviamente, e quindi la dignità ai Rom ben venga, che venga riconosciuta, ma con un lavoro. Mi piacerebbe sapere dalla signora, ma non so se ci sono i dati adesso, ma anche un'altra volta, se la percentuale di quanti Rom cercano lavoro. Perché a me questa cosa qui è un'altra questione, insomma, di quanti la cercano, di quanti l'otterrebbe. No, guardate, il tema c'è tutto, ci siamo concentrati varie volte, ci dicono: ah, ma vi occupate solo di questo. No, non ci occupiamo solo di questo. Tra l'altro oggi dovevamo avere anche il sindaco Fassino che ci doveva spiegare nei dettagli questo piano, lo recupereremo una prossima volta. Ma come sempre chiudiamo con la nostra segreteria telefonica, il numero è quello 02 4652 44 92. Io sento mafia capitale, politici, corruzione e tutto. Ok, però se sbaglio pago, mi vengono subito a prendere, mi vengono subito a pignorare, mi inchiappare le varie. La gente ruba e sono, non fanno niente, anzi sono ancora lì. Fabrizio Corona è stato rilasciato dal carcere e affidato a una comunità. Adesso vediamo quanto passerà prima che scappi via. Salvini, 20.000 euro al mese tacciate, fate venire a far baessa, va a dormire Salvini, va a dormire. Ciao Milan, senti, volevo dire a Ignazio Marino di non mollare. Alino, e che attaccare l'anno prossimo? T'attacchi come gli ultimi 4 anni. Attaccare, ma va a cagare! Ma no, va bene, va bene. Intanto con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e il nostro alpino Peter Bescapè vi diamo l'appuntamento a domani mattina alle 6.30. No, no, invece bisogna sempre avere lo spirito di... Attaccare! Di più! Attaccare! A domani! Attaccare!